Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Tensioni sulle materie prime, e di questo parleremo in apertura. C'entra l'Egitto, e poi come sempre sui mercati viene usato anche il pretesto, ahimè, dell'Egitto. Sicuramente c'entra l'Egitto sul petrolio, che a New York ha aperto in rialzo a 91,3 dollari al barile, mentre continua la corsa del Brent, ossia il petrolio trattato a Londra, quello del Mar del Nord, a 103 dollari al barile. L'oro è poco mosso, però il rame ha fatto un nuovo record storico, e qui devo dire che l'Egitto conta molto meno e pesa molto meno. Su altre materie prime invece sì, per esempio le materie prime di carattere alimentare, cereali, anche se sono a livelli massimi. Ancora sui mercati, qui l'Egitto invece pesa obiettivamente meno, c'è molta incertezza, e c'è molta incertezza soprattutto a Milano oggi, dopo intere sedute in cui Milano era cresciuta più delle altre borse o era calata meno delle altre borse. Oggi invece perde l'1,4% con Parigi, che è simile, ossia meno 1,20, mentre Francoforte perde solo lo 0,18 e Londra solo lo 0,36%, l'America perde uno 0,3%. L'euro risente invece di alcune tensioni di carattere internazionale, soprattutto della corsa ai beni rifugio, come si chiamano in gergo. L'euro scende sotto quota 1,38, anche sotto quota 1,37, 1,36 e 2, ripeto, però a questo livello 1,36,2 non è un livello in cui si può parlare di euro debole. Tra i titoli, chi va male oggi? Beh, chi più era cresciuto nei giorni scorsi, soprattutto i bancari, e mi riferisco a Intesa San Paolo, che perde il 3,72%, Banco Popolare meno 2,60, Unicredit meno 2,5, Azimut meno 2,1, come Telecom Italia e Mediolanum. Il 2% lo perde invece Impregilo, e ancora UbiBank meno 1,90, Generali meno 1,90 anch'essa, Monte dei Paschi meno 1,80%, Diasorin meno 1,7%, come Buzzi, Unice, Medesti, Microelectronics. 1,5% è il calo invece di Finmeccanica, ma anche di Snam Rete Gas. Chiudiamo con Tenaris meno 1,3, Enel meno 1%, attesa oggi per i dati di Enel, e Eni meno 0,90%. Va bene Fiat Industrial, e dopo i dati sulle matricolazioni è tornata la divergenza tra cosa fa Fiat, intesa come auto da una parte, e Fiat Industrial, ossia camion e trattori, che continua ad andare bene, più 1,81% come crescita del titolo oggi, ultimo prezzo a 10,13 €. Prismian più 0,95, Exol più 0,70, Enel Green Power dopo i dati diffusi ieri alle 8 di sera più 0,5%, Fiat Auto invece per inciso perde lo 0,40%. Ancora per quello che riguarda i singoli mercati, citiamo, vedo già delle domande sull'oro, ripeto, l'oro oggi è poco mosso. Parleremo di mercati, di tensioni derivanti anche dall'Egitto, ma non solo, e poi i conti di Enel, se riusciamo ad averli in diretta, e la bocciatura che vi hanno già ricordato i nostri GR del federalismo fiscale, perché su questo non è passato il decreto, ma il governo ha detto insomma noi andiamo avanti. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le notizie in breve. Allora, al di là di petrolio ed oro e rame, tra l'altro segnaliamo che nel settore delle materie prime il numero 2 al mondo nell'acciaio diventerà giapponese in termini di capacità di produzione, e nascerà dalla fusione tra Nippon Steel e Sumitomo Metal Industries. Sono delle nozze annunciate a sorpresa. Oggi, entro l'ottobre del 2012, si arriverà a una vera e propria fusione, ed è la più importante aggregazione nel mondo siderurgico giapponese dopo quella tra NKK e Kawasaki Steel, da cui è nata GFE Holdings nel settembre del 2002. Conferma invece a chi ce lo chiede che volano tutte le commodities, come si chiamano in gergo, alimentari, e quindi lo zucchero più 6% è al livello più alto da 30 anni a questa parte, a 36 centesimi per pound, che sarebbero 453 grammi. Negli ultimi 12 mesi il grano è aumentato del 110%, come abbiamo capito anche dall'inizio delle proteste in Tunisia e poi in Egitto, e ancora il mais dell'87%. Come va il Baltic Dry Index? Ogni tanto lo monitoriamo. Perché? Perché è un indice molto importante per capire l'attività economica a livello globale. È un indice che misura il costo del noleggio di un cargo, no, si chiama Baltic Dry perché non include l'oil, non include il petrolio, quindi tutti i cargo tranne le petroliere e quelli che trasportano comunque materie prime energetiche. È un indice importante perché più costa noleggiare un cargo, più vuol dire che c'è commercio mondiale. Ai tempi della crisi del 2008 crollò a 600 punti, viaggiava a fine 2007 a 8.000 punti, 11.000 punti per dare il livello, e crollò fino a 600 punti. Viene misurato guardando giornalmente le quotazioni delle principali rotte commerciali nei cargo e guardando appunto quanto costa noleggio. Ebbene, il Baltic Dry Index è tornato a scendere in maniera pesante, è sceso a 1.000 punti, il livello più basso da 2 anni a questa parte. È iniziata alla fine dello scorso ottobre la caduta, quando l'indice quotava 2.800 punti, quindi ha perso il 62% l'indice che misura il costo del noleggio di un cargo per trasportare merci. Le borse arabe, e qui veniamo invece ai mercati internazionali, hanno subito perdite, quindi hanno bruciato capitalizzazione per 50 miliardi di dollari in 7 giorni, come effetto, questo sì, diretto della crisi in Egitto. La capitalizzazione delle 13 borse più importanti dell'area, infatti, è passata da 990 miliardi a 942 miliardi. Quella che ha perso di più è la borsa saudita, che è anche la più importante nel mondo arabo. Ha perso 21 miliardi di dollari, la borsa egiziana ne ha persi 12 miliardi. Poi è stata sospesa l'attività anche. Ancora, l'America avevano dati buoni sui sussidi alla disoccupazione che sono calati più delle attese, 42.000 sussidi in meno contro attese di 34.000 sussidi in meno. La produttività americana invece, anche la produttività americana è una buona notizia, così insomma Confuto che dice insomma solo notizie negative oggi, no, solo notizie, punto. E cioè la produttività americana è cresciuta nel 2010 del 3,6%, è ai massimi da 8 anni, cioè come rialzo, è il rialzo più forte da 8 anni a questa parte. Nel frattempo, questa produttività americana come mai è cresciuta così tanto? Beh, grazie al calo del costo del lavoro, lo so, la produttività può crescere per vari fattori, uno di questi è se si abbassa il costo del lavoro, questo è abbastanza lapalissiano, e l'America ha avuto un calo del costo del lavoro per 2 anni di fila, non capitava dai primi anni 60. Banca Centrale Europea, decisione ampiamente attesa di lasciare i tassi invariati all'1%, l'inflazione, come ha detto il numero uno della Banca Centrale Europea Trichet, era attesa al 2,4%, e così è stata. Dice Trichet che ci sono segnali di pressione sui prezzi, ma lo scenario resta di stabilità, e mi sembra che con queste difficoltà a uscire dalla crisi, con questa lentezza per alcuni paesi, non la Germania ma gli altri paesi, mi sembra difficile che possa crearsi inflazione, a meno che non schizzi il prezzo del petrolio. Tant'è che lo stesso Trichet, come sempre molto attenta la Banca Centrale Europea all'inflazione, eppure nonostante la forte sensibilità per l'inflazione, Trichet rassicura, dice, le aspettative sull'inflazione sono fermamente ancorate. The current key ECB interest rates still remain appropriate. Il livello attuale dei tassi di interesse è ancora appropriato e quindi abbiamo deciso di lasciarli invariati. Considerando le informazioni e le analisi disponibili dall'ultimo incontro del 13 gennaio, continuiamo a vedere segnali di un aumento delle pressioni inflazionistiche nel breve termine, dovuto principalmente ai prezzi energetici e delle materie prime. Voglio sottolineare che finora l'andamento dell'inflazione non ha cambiato le nostre valutazioni. La stabilità dei prezzi verrà mantenuta, ma è necessario monitorare da vicino la situazione. I dati più recenti confermano il momento positivo dell'attività economica nell'area euro, anche se rimane elevato il livello di incertezza. In generale ci attendiamo che le pressioni inflazionistiche nel medio-lungo termine dovrebbero rimanere contenute e che l'inflazione continui a essere ancorata e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. Of keeping inflation rates below, but close to 2% over the medium term. Sempre la Banca Centrale Europea e sempre sulle attese in Europa. Trichet, tra l'altro, ha fatto anche un accenno al Medio Oriente, ha detto che la Banca Centrale Europea segue con estrema attenzione gli sviluppi in Medio Oriente, e anche lì dice eviteremo effetti a cascata sui prezzi. Il timore, appunto, adesso ci arriviamo, è il primo tema di questa puntata, che Medio Oriente, al di là delle preoccupazioni di carattere politico e sociale, possa portare la crisi egiziana anche a una tensione sui prezzi delle materie prime. Ma dicevo, per quello che riguarda invece il fondo salva stati, quello varato dall'Unione Europea per evitare attacchi speculativi ai paesi più deboli, Trichet ha chiesto che sia flessibile ed efficace, ci mancherebbe. As regards the decision which will be taken by governments, per ciò che riguarda le decisioni che verranno prese dai governi, sia sul fondo di stabilizzazione che sul fondo salva stati, la cui riforma verrà discussa domani dal Consiglio europeo, ripeto quello che ho già detto più volte. Vale a dire, auspichiamo che il fondo salva stati sia reso il più flessibile possibile e pensiamo che dovrebbe essere anche il più efficace possibile in termini di ampiezza di utilizzo, di raggio d'azione. Be as effective as possible in terms of magnitude. Vedo che c'è già chi scrive al 349-238-6666 dicendo, ma insomma, se c'è un po' di deflazione è un bene, il vero problema è l'inflazione. Insomma, attenzione, la deflazione non è un bene, diciamo che la bassa inflazione è un bene in questo momento, dove è difficile poi ricontrattare aumenti salariali. La deflazione in sé, io vi ricordo che ha un effetto su tutti, estremamente negativo. Quando i prezzi iniziano a scendere, questo vuol dire deflazione, cioè l'opposto dell'inflazione, purtroppo si generano delle attese di prezzi in calo e quindi la gente non consuma, non compra o rinvia gli acquisti, ma non solo i cittadini normali, anche le imprese quando devono investire, perché si attende in futuro prezzi ancora più in calo, e questo rischia di diventare un meccanismo di blocco poi dell'attività economica. Attenzione. Del federalismo parliamo più avanti, lo dico anche chi scrive, sapete già che la Commissione bicamerale ha respinto il testo sul federalismo municipale, cioè la quarta bozza, quella concordata con i comuni. Perché l'ha respinto? Perché voi siete andati in parità in Commissione, 15 a favore, 15 contrari, e il Presidente della Commissione Mario Baldassarri ha votato contro, ma il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto andiamo avanti, il patto con la Lega è saldo. Dopo ricorderete l'intervista del ministro Maroni al Corriere della Sera, che diceva se non passa si va a votare. Calderoli invece getta acqua sul fuoco, dice stiamo delogando, lo decidiamo insieme. Bersani invece chiede che il governo si fermi e venga discusso assieme anche all'opposizione un nuovo federalismo, che Berlusconi e Bossi prendano atto della situazione. Due notizie in breve ancora dall'Italia e poi passiamo al primo tema. Buona la notizia invece sulla cassa integrazione, che è scesa a gennaio a un livello obiettivamente importante, per cui meno 25% rispetto a gennaio del 2010. Queste le ore di cassa integrazione chieste e autorizzate dall'INPS. Ripeto, siamo meno 25% rispetto a gennaio, ma cosa ancora più importante in questo caso è il dato congiunturale, ossia siamo mese su mese a un meno 30% di richiesta di cassa integrazione rispetto a dicembre, per cui meno 25% rispetto all'anno prima, meno 30% rispetto a dicembre. E allora, visto che il gufo è tornato dalla settimana bianca, ma anche il gallo, mi sembra una notizia su cui festeggiare. Allora, un gallo ogni tanto sicuramente non ci fa male. Dite che io non ho dato la quotazione dell'oro, vi ho detto che è fermo, comunque $1,336 sui mercati asiatici. Chi ha toccato i $10,000 a tonnellata invece è il rame, nuovo record storico. E poi dicevamo zucchero più 6% solo oggi, così è arrivato a 36 centesimi per pound, la quotazione più alta da 30 anni. Il grano in un anno ha fatto più 110%, il mais più 87%. E certo, il petrolio, il Brent, ha superato i $103 al barile, però anche il cotone, giustamente, è ai massimi da 150 anni, dalla guerra di secessione americana, quando serviva per fare le uniformi dei nordisti, dei sudisti. Allora, c'è chi ci chiede delle agitazioni dei giornalisti del Sole 24 Ore, se riguardano anche noi, per ora no, ma insomma sono temi che poi lascio alle relazioni sindacali, perché non ne parliamo. Massima solidarietà chiaramente ai colleghi del Sole 24 Ore, e ci mancherebbe, ma andiamo avanti con il primo tema. Che cosa ha spinto le quotazioni? Attenzione ai cortocircuiti. L'Australia, che è andata sott'acqua, l'abbiamo raccontato per interi giorni, ha dato il primo colpo e tra l'altro in queste ore è colpita dal ciclone, da un nuovo ciclone dopo le piogge dei mesi scorsi. All'opposto, in Argentina una fortissima siccità sta colpendo i raccolti. E la FAO lancia l'allarme: i prezzi alimentari sono a un nuovo record storico. L'indice della FAO, che si basa su un paniere composto da materie prime come grano, riso, carne, prodotti del latte, zucchero, è schizzato a 231 punti. La Banca Mondiale chiede di arginare i prezzi alimentari. Professor Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia internazionale all'Università Statale di Milano, editorialista su Sole 24 Ore proprio in tema anche di materie prime. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, sgombriamo il campo dai facili cortocircuiti, dicevo. Quanto pesa l'Egitto? Quanta è la componente psicologica? Quanto invece la componente reale? Sappiamo che lì sulle materie prime pesa più il canale di Suez che l'Egitto in sé, perché da lì transita il 2,6% della produzione mondiale di petrolio, ma le navi hanno ripreso a circolare. E quanto invece l'Egitto è una scusa per prendere atto che con le alluvioni in Australia, la siccità in Argentina, la domanda cinese, era ora di speculare sulle materie prime. Professore. Ma diciamo che l'Egitto soffia su un fuoco che però era già acceso. Infatti le tensioni sui prezzi delle materie prime precedono la crisi egiziana, no? Quindi c'erano già sui mercati. E secondo me, come sempre, non è un cortocircuito, ma è un circuito, se volete, di ragioni che vanno, come ricordavate voi, da problemi di produzione, di offerta, no? Sulle materie prime, ad esempio appunto la siccità in Argentina o l'Australia appunto sotto le inondazioni, eccetera. E dall'altra da fattori di domanda, e soprattutto la domanda nei paesi emergenti, fattori che erano già venuti fuori prima della crisi, prima che la crisi finanziaria appunto bloccasse queste tensioni sui mercati. Ricordiamoci che i prezzi erano già saliti ed erano molto elevati nel corso del 2007 e del 2008, e questo era già un dato preoccupante allora. Evidentemente le economie emergenti chiedono moltissime materie prime, che sono sia materie prime di uso industriale, per esempio l'aumento del prezzo del rame è perché la Cina lo usa per tutta la sua infrastruttura elettrica che sta rinnovando, ma sia anche appunto alimentare. E perché? Perché con l'aumento del livello di reddito cambiano le abitudini alimentari e si mangia più carne e gli allevamenti usano in realtà beni tipo mais o soia eccetera per nutrire gli animali, che ne mangiano molto di più di quanti ne mangeremmo noi se fossimo limitati a nutrirci di queste cose. Allora, dicono che ho detto grana invece di grano, era chiaramente il grano, non il grana, perché poi c'è la grana e il grano. No, ecco, il prezzo del grana non l'ho seguito però. No, non volevo mettere in imbarazzo, io ho sbagliato, mi segnalano gli ascoltatori, è il grano che negli ultimi 12 mesi è il massimo, non il grana, anche se no uno inizia a tenerlo più in cassaforte che in frigorifero. Però, professor Barbara Navaretti, visto che lei studia da tempo il fenomeno, mi aiuti a capire un'altra cosa, cioè... Mi sembra importante stabilire se qui siamo di fronte a fenomeni congiunturali e quindi diciamo temporali, siccità, alluvione, rivolte in Egitto, quant'altro, oppure se al di là di queste contingenze che vengono usate come scuse, non siamo di fronte a una domanda strutturalmente in crescita. Perché quando lei mi dice che la Cina deve rifare le infrastrutture e usa rame, io dico vabbè, per uno o due anni il rame resterà alto, però poi finisce anche la Cina di fare le infrastrutture. Se invece mi dice che cambiano i consumi alimentari, mi spavento un po' di più, perché nel momento in cui i cinesi, gli indiani iniziano a mangiare meglio, per carità, in maniera più diversificata, lì i prezzi me li porti in alto per sempre, a meno che non vogliamo diciamo di ridurre la parte boschiva dei vari paesi e iniziare a piantare mais, grano dovunque. Allora, secondo lei è più congiunturale o più strutturale il problema? Allora, sicuramente c'è un elemento strutturale, nel senso che la tensione sui mercati delle materie prime è dovuto al fatto che comunque il livello globale del reddito dell'economia e dell'attività economica aumenta rispetto a delle fonti di approvvigionamento che sono sempre quelle con dei problemi, con mercati molto ristretti, eccetera. C'è però su questo si innesta ovviamente un momento congiunturale che se vuole lo possiamo definire come speculativo, ma non è necessariamente tale. Per esempio, moltissimi paesi in via di sviluppo in questo momento stanno aumentando gli acquisti di scorte di beni alimentari. Perché lo per non fare la fine della Tunisia e dell'Egitto? Esatto, perché lo fanno perché vogliono evitare appunto di avere un aumento eccessivo del prezzo di questi beni e vogliono avere delle scorte adeguate, no? Sono come Giuseppe e i suoi fratelli. Però possiamo definire questa attività speculativa? Non lo so, forse è, diciamo così, preventiva. Cautelativa. Però questa contribuisce moltissimo a far aumentare i prezzi, quindi è acquisti da panico, che in qualche modo sono gli stessi che si verificano sui mercati quando ci sono degli elementi emotivi. Quindi c'è un'emotività molto forte nella motivazione. Cioè, non c'è solo il panic selling, le vendite da panico, c'è anche il panic buying. Esatto. Allora, ho capito quello che lei dice, in effetti... Voglio dire, come sappiamo dal Manzoni, l'assalto ai forni pesa più di tante manifestazioni e l'abbiamo visto in Tunisia e in Egitto. Altra domanda che ho per lei, vedo che alcuni ascoltatori dicono anche il grana è aumentato nel 2010, mamma mia, ho scatenato un putiferio circa il 58% e facciamo un bel fondo sul grana, male che vada non se lo mangia. Però le risulta che le grandi banche d'affari abbiano un ruolo in questo? Perché voglio dire, finché sono i paesi, magari... con un po' di coda di paglia nelle monarchie o nei regimi che durano da troppo tempo, che acquistano grano e mais perché vogliono tenere i prezzi bassi in modo da non avere rivolte in piazza, vabbè. Ma a noi risulta, per esempio, che alcune grandi banche d'affari, JP Morgan, come segnala un ascoltatore, ma non solo, stiano investendo notevolmente nei futures e negli acquisti carta su carta di prodotti delle materie prime. Le risulta e da lì può arrivare un elemento ulteriormente destabilizzante? Beh, sicuramente i mercati sui futures, diciamo i mercati di carta sulle commodities, che hanno le commodities come fondamenti, influenzano l'aumento dei prezzi, su questo non c'è dubbio. Però comunque rimane un problema strutturale di fondo, per cui comunque una parte dell'aumento è dovuto a problemi economici reali. Quanta parte sia quella strutturale e quanta sia quella, diciamo così, speculativa legata al mercato della carta sulle commodities, questo è molto difficile da dire. Diciamo tutti e due condividono una responsabilità. Però penso che non dobbiamo dimenticare comunque il fatto che rimangono dei nodi strutturali che in qualche modo incidono e pesano moltissimo. Ultima domanda che ho per lei, mi rendo conto che è la parte più difficile, però se dovesse fare delle previsioni in questo momento, lasciando stare poi i casi singoli dei singoli paesi, lei vedrebbe un indice complessivo delle commodities restare alto o arrivare a nuovi record. Cioè, il cotone è a record dallo scoppio della guerra di secessione, cioè, siamo a dei record incredibili. Lasciamo stare l'oro che ha fatto il record storico, però insomma il grano 12 mesi 110%, ma a me fa impressione anche lo zucchero al livello più alto da 30 anni a questa parte. Per cui, allora, io credo che il fatto poi, fra l'altro, che tutte le commodity salgano di prezzo insieme ci dice che c'è qualche cosa di un po' strano, no? Perché non è che tutti i mercati di tutte le commodity siano uguali agli stessi e che comprare rame sia esattamente lo stesso. Sì, anche perché lo zucchero in Australia, che io sappia, ne fanno poco, e anche in Argentina, per cui è difficile dare la colpa alla meteorologia lì. Esatto, quindi io penso che ci sia sicuramente, i prezzi in questo momento stanno scontando, come dicevamo prima, una componente psicologica forte, quindi è possibile che a un certo punto rallentino. Naturalmente quello che dicevo prima sulla componente strutturale dell'aumento dei prezzi significa che diciamo, a regime i prezzi probabilmente non saranno gli stessi che abbiamo osservato durante il periodo della crisi, diciamo, ma saranno in media più elevati. Forse quelli che vediamo adesso però sono dei picchi. Per esempio, un'altra commodity su cui si riflette è l'oro, che ovviamente ha un ruolo completamente diverso, che è un ruolo di bene rifugio. Ad esempio, nel momento in cui i mercati si calmassero, i mercati finanziari veramente si calmassero del tutto, è possibile che gli investimenti in oro diminuiscano, il prezzo dell'oro cali, no? Porterà inflazione? Beh, certamente l'aumento del prezzo delle commodity, soprattutto se gli aumenti continuano, ricade sull'inflazione, e difatti mi sembra che Trichet oggi abbia manifestato quanto di non alzare i tassi, ha riconosciuto che questa è una tensione inflazionistica e che c'è molta tensione. Grazie anche per la chiarezza che le è propria a Giorgio Barba Navaletti, che insegna economia internazionale. Ha una domanda, che c'è ancora? Sì, sono qua. Perché mi chiedono gli ascoltatori, ma come mai il Baltic Dry Index cala, cioè l'indice che misura quanto costa noleggiare un cargo per trasportare merci, mentre le materie prime sono così alte? Le due cose non sono in contraddizione, a mio avviso, però vorrei sentire anche la sua opinione. Beh, naturalmente i costi del noleggio dipendono anche dal commercio dei beni, dei beni manufatti, quindi evidentemente ha una componente che è anche diversa. Certamente con la crescita dei commerci che stanno aumentando, per fortuna, a poco aumenteranno anche i costi dei noli. Perfetto, grazie di nuovo, rinnovo i complimenti a Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia internazionale all'Università Statale di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Adesso arriviamo anche agli altri temi, due risposte brevissime. C'è chi dice: sul federalismo nessuna sconfitta, si tratta di un pareggio. Mamma mia, allora, se la squadra prima in classifica pareggia con l'ultima in classifica, è un pareggio, però ci si poteva attendere di più. Allora, il governo, non è passato il decreto, lo dico anche se a noi piaceva, l'abbiamo parlato molte volte, non è un problema di quello che piace a noi o piace a voi, il problema è quello che capita nella realtà dei fatti, e cioè in commissione bicamerale si è andati al pareggio 15-15 e quindi non è passato il testo, perché il presidente della commissione Baldassare ha votato contro. Cioè, il dato di fatto è che non è passato. Poi 15-15 è sicuramente un pareggio, ma il decreto non è passato. Invece c'è chi, eccolo, è arrivato, mi stavo veramente preoccupando, Barisoni si dimetta, lei è un crumiro, che scrive con la U non con la O, mi permetto di segnalare, guardi che Radio 24 non è in sciopero, le segnalo solo questo. E comunque grazie Fabio, perché mi tiene compagnia. Il meteo, la pubblicità e poi la borsa, e poi vediamo se arrivano i dati dell'Enel, e poi anche il federalismo fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, parliamo adesso di borsa e poi arriviamo anche al federalismo, l'altro grosso tema di oggi. Lo abbiamo raccontato in questi giorni, vi ricorderemo di nuovo tutti i meccanismi previsti dalla bozza, che è la quarta bozza, quindi l'accordo raggiunto con i comuni, che però, ripeto, non è passata in commissione, si è arrivati a un pareggio, ha votato contro il presidente, non è passata. Inutile continuare a girarci attorno, vedo già delle dichiarazioni abbastanza anche seccate di alcuni grossi esponenti leghisti, il governatore ex ministro, il governatore del Veneto Luca Zaia, che dice sbigottiti, questa è una decisione per chi non vuole il cambiamento, chi vuole il cambiamento è sbigottito. da questa decisione. Insomma, chiaramente la Lega non è contenta, ma chiaramente adesso si va verso la trattativa politica. Però, prima di tutto, rimettiamo ordine al programma. E allora, chiarito che 349-238-6666 è il numero, come sempre, per i vostri sms, la borsa. Meno 0,93%, quindi non ha chiuso sui minimi, e già questa è una buona notizia. Milano perdeva un po' di più, un 1,3-1,4. Parigi meno 0,70, Francoforte si conferma tra le migliori, più 0,1, anzi la migliore probabilmente. E Londra meno 0,40, l'America adesso è invariata, l'euro a quota 1,36,45. Andrea Fontana, l'agenzia di stampa Radio Colle sulle 24 ore, come sempre con noi, buonasera. Buonasera Sebastiano. I motivi di questo calo brusco a Milano, in realtà sappiamo che su Milano pesano di più le banche quanto a indice rispetto agli altri listini, banche male oggi. Sì, in generale sicuramente Milano ha perso più degli altri, anche perché sono scattati i realizzi in particolare su Unicredit e su Intesa San Paolo, società che dall'inizio dell'anno, insomma dai primi giorni dell'anno, avevano messo a segno dei rialzi molto significativi. Intesa aveva guadagnato quasi il 35% e Unicredit il 27%. Va detto che una brutta performance ha interessato anche il Banco Popolare, che è in pieno aumento di capitale, cioè domani sarà l'ultimo giorno in cui saranno trattati i diritti in opzione per avere le azioni e l'aumento di capitale, ma in generale le borse europee hanno viaggiato in sottotono durante la giornata, un po' preoccupati sicuramente dalla situazione egiziana. Oggi è arrivato anche il taglio di rating da parte di Fitch sull'Egitto, e anche dalle parole di Jean-Claude Trichet, che il presidente della BCE, che ha parlato di tensioni inflattive. Sì, per quanto l'inflazione sia al 2,4%, poi insomma la Banca Centrale Europea è così ossessionata dall'inflazione che bisogna metterle anche la tara. Detto ciò, abbiamo fatto tutta l'apertura ricordando cosa sta capitando sulle materie prime, alimentari e non solo, e cosa potrebbe questo generare in termini inflattivi, quindi di creazione di inflazione. Si chiama in quel caso inflazione importata, cioè non generata da gente più ricca che spende di più, non mi sembra l'aria, ma generata da materie prime che arrivano da fuori, che costano di più e fanno aumentare i prezzi dei prodotti finali. Chiuso questo piccolo inciso, andiamo avanti. Fiat Industrial, ormai sono due titoli, due mondi, no? Auto da una parte, camion e trattori dall'altra, più 2,1%. Sì, infatti oggi sicuramente c'è stato un po' di spostamento negli acquisti su Fiat Industrial, mentre Fiat ha chiuso sostanzialmente piatta dopo che l'indicazione sulle immatricolazioni sia in Germania sia in Brasile arrivata ieri non avevano dato delle grandi notizie confortanti per quanto riguarda appunto l'attività automobilistica. Quindi oggi acquisti su Fiat Industrial, è tornata decisamente sopra 10 euro, ha chiuso a 10,16. Va anche registrato che la Norges Bank, cioè il fondo della Banca Centrale Norvegese, è tornata sopra il 2% dell'azionariato di Fiat Industrial, detiene infatti il 2,076%, quindi questa è anche una notizia di fiducia che ha dato la spinta al titolo, oggi è stato il migliore del FTSE MIB. Allora, facciamo una cosa, c'è il traffico perché stanno uscendo i dati dell'Enel, molto attesi oggi, e dovremmo riuscire anche a parlarne con il responsabile finanziario dell'Enel. Allora, prendiamo un paio di minuti, nel senso che c'è il traffico. 349-238-6666, poi torniamo in diretta con te Andrea e vediamo anche con chi riusciamo a commentare questi dati in diretta dei conti Enel. Allora, di nuovo in diretta in attesa di parlare di Enel, vediamo come ha chiuso il titolo, così intanto anticipiamo. Non bene oggi Enel, dove sei? Eccolo qua, meno 0,30, perdeva di più quando abbiamo iniziato il programma, per carità. Eni anche meno 0,40%, delle banche abbiamo già detto, Andrea mi sembra di non poter aggiungere molto altro, timori egiziani, timori in generale e un po' di realizzi, anche perché Milano bene era andata in questi giorni rispetto alle altre borse europee, anche in media meglio. Allora, Telecom, perché ci sono i conti anche di Vodafone oggi. Sì, in particolare sono stati i conti di Vodafone Italia a mettere un po' in difficoltà Telecom, in quanto appunto l'andamento di Vodafone Italia ha registrato nel terzo trimestre una fl- flessione solo dello 0,9%, mentre per quanto riguarda Telecom Italia era andato molto, molto peggio il calo dei ricavi, e questo insomma, il confronto con il concorrente ha finito per penalizzare il titolo, che ha registrato appunto la performance negativa verso l'1,58%. Ritornando a Enel, prima di parlare dei conti ne parlerai tu, se Enel ha chiuso sostanzialmente piatta appena sotto la parità meno 0,3, Enel Green Power invece all'indomani dei conti è stata positiva, ha guadagnato lo 0,74%, sì, sì. È la società che fa le attività di energia rinnovabile. Oh, Fondiaria, sai, invece, perché oggi l'amministratore delegato è nuovo, Emanuele Erbetta, ha presentato anche delle indicazioni sugli obiettivi del gruppo. Il titolo? Il titolo è stato molto vivace questa mattina, è arrivato a guadagnare ben oltre il 3% e poi ha corretto in linea un po' con diciamo l'andamento del mercato, che è peggiorato nel corso del pomeriggio, ha chiuso a più 0,2%. Delle indicazioni di questa mattina dell'amministratore delegato Erbetta vanno sottolineate fondamentalmente due cose. Erbetta ha detto ragioniamo su dismissioni su tutti gli asset tranne naturalmente le due società quotate, cioè Fonsai e Milano Assicurazioni, quindi stiamo facendo delle valutazioni per quelle attività che non rientrano nel core business e che possono essere appetibili per il mercato, e dall'altro canto nel 2011 è previsto un calo dell'indebitamento sotto gli 1 miliardo e 400 milioni queste due indicazioni sono, diciamo, sono i due aspetti fondamentali che Erbetta ha messo in evidenza. Il titolo prima ne ha beneficiato, poi ha un po' corretto, probabilmente qualcuno ha realizzato. E allora andiamo avanti con i titoli. Tra l'altro faremo anche delle precisazioni in merito alla vicenda della Pfizer di ieri sulla fabbrica catanese. Non c'è stata una chiusura della fabbrica, poi ve la diamo la precisazione, ci ha chiamato la Pfizer. Io pensavo fosse per un altro motivo, perché loro si parlava di Viagra, invece ci ha chiamato per precisare che abbiamo detto una cosa non corretta ieri e poi la ribadiremo. Invece andiamo avanti con i titoli, perché i migliori e i peggiori ancora non li abbiamo dati. Avete ragione, avete sempre ragione. Icon meno 29%, ITWay meno 13%, Sadi meno 6,60%, Ratti meno 4%. Questi peggiori. Bene, Yorkville, BHN. Tu lo sai che fa? Io ogni tanto ammetto la mia ignoranza. Più 15,60%. Yorkville è una società che, diciamo, gestisce poi dei fondi che investono a loro volta in società che gestiscono fondi che a loro volta investono. Meteoris Capital più 5,6% e ancora Mondo Home Entertainment più 4,44%. Però adesso resta con noi Andrea Fontana, perché ci sono i conti dell'Enel appena diffusi. Allora ve li leggo in diretta. Ricavi a record per Enel a 73,4 miliardi. L'EBITDA, che sarebbero i guadagni prima di pagare le tasse e gli interessi, sono sopra le stime. Belli questi conti. Praticamente l'indebitamento è pari a 44,9 miliardi. E allora siamo in collegamento, o dovremmo essere in collegamento, con il dottor Luigi Ferraris, che è direttore amministrazione finanze e controllo di Enel. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, belli conti, belli i conti, bello anche Conti, che è il suo amministratore delegato, perché con questi conti, no, festeggerà pure lui. Infatti vedo un comunicato che dice: Fulvio Conti, impegni rispettati verso utile sopra i 4 miliardi. L'utile ci conferma che andrà sopra i 4 miliardi. Cos'è che ha contribuito di più a questi ricavi, dottor Ferraris? Direi decisamente le attività internazionali di Enel, in particolar modo Endesa, che ha conseguito dei risultati eccellenti che evidentemente hanno contribuito alla crescita dei ricavi e quindi anche dei margini. Grazie alla presenza di Endesa in mercati come il Latin America e grazie anche allo sviluppo che ha fatto nell'internazionale, in particolar modo nell'Europa dell'Est, siamo riusciti a dare una forte spinta ai nostri ricavi e al nostro risultato, in particolare al margine operativo lordo, che vorrei ricordare è il risultato più elevato mai conseguito da Enel nella sua storia. Praticamente il record di fatturato, ma appunto anche il MOL, cresce del 6,7%, giusto? A 17 miliardi e mezzo? Esattamente. E voi stimavate quanto in precedenza? Ma noi abbiamo dato un target alla comunità finanziaria l'anno scorso di un risultato, un margine operativo lordo pari a 16 miliardi di euro. Quindi abbiamo battuto decisamente i target annunciati al mercato e anche le aspettative degli analisti che si attestavano mediamente intorno ai 17 miliardi. Allora, per quello che riguarda invece l'indebitamento, noi sappiamo che lì c'è la forte componente di Endesa, cioè vi siete comprati quello che vi mancava dell'Enel spagnola. Però insomma è ancora alto, cioè 44,9 miliardi, 100 milioni in meno rispetto ai 45 dell'obiettivo prefissato, va bene, però ancora alto questo indebitamento, o no? Direi intanto registriamo il calo che abbiamo conseguito rispetto alla fine del 2009, quindi un miglioramento di 5 miliardi di euro. È sicuramente un miglioramento notevole. Se poi lo dovessimo nettare degli effetti cambio, questo miglioramento sarebbe quasi pari a 7 miliardi di euro. Il debito in valore assoluto può sembrare ancora elevato, ma lo dobbiamo rapportare anche al margine operativo lordo, che poi è la cassa allo stato puro, prima delle imposte, prima degli oneri finanziari, che è 17,5 miliardi di euro. Quindi utilizziamo i soliti parametri, indebitamento finanziario netto su margine operativo lordo su EBITDA, siamo direi su livelli intorno a 2,5, assolutamente in linea con le altre utilities. Detto questo, Enel può contare su un forte contributo della cassa operativa che decisamente nei prossimi anni contribuirà ulteriormente a ridurre l'ammontare del debito. Ma lei ha introdotto un neologismo, nettare, inteso come al netto, no? Ho capito bene, Ferraris? Nettare, ridurre, diciamo. No, perché nettare in italiano esiste solo in Veneto, vuol dire pulire, però ci stava vicino, nettare, ridurre, pulire. No, è che ogni tanto, dopo che abbiamo visto briefare, io odio tutti gli inglesismi. E ragione, anche nettare. Siamo vittime. Lo so, vittime. Ma voi che lavorate in finanza soprattutto, a me poi il compito di tradurre, lo so che è difficile switchare dall'inglese all'italiano. Ha perfettamente ragione, scusiamo con gli ascoltatori. No, ma gli ascoltatori sono preoccupati della bolletta dell'Enel, non dei suoi inglesismi, se mi permette. Allora, un'ultima domanda, il dividendo invece... Ci può anticipare qualcosa? Dividendo, abbiamo dato l'indicazione di un utile netto ordinario superiore ai 4 miliardi di euro. Questo vuol dire che rispetto all'obiettivo originario i nostri investitori, i nostri azionisti potranno contare su un dividendo che sarà superiore alle attese. Ricordo che c'è un indice appunto del 60% dell'utile netto ordinario che verrà corrisposto ai nostri azionisti, e quindi con l'utile netto ordinario in crescita rispetto all'obiettivo evidenziato l'anno scorso di 4 miliardi di euro ci sarà un aumento del dividendo. Allora, grazie al dottor Ferraris e quindi al direttore di amministrazione, finanza e controllo di Enel. Grazie, buonasera. Allora, siamo in... Vedo vari messaggi, un attimo di serietà, sono io qualche contribuisco a non rendere serio il programma, però devo leggere il comunicato. Ha ragione la Pfizer, e quindi il colosso farmaceutico che produce anche Viagra, perché quando diamo informazioni, ci mancherebbe, che riguardano gli occupati, qui sono serissimo, non ci si può sbagliare. Quindi con piacere, tra virgolette, accolgo anche la correzione che ci ha mandato la Pfizer, visto che ieri citavamo il caso di una chiusura all'estero di una fabbrica, ricordano quello che era già successo e la chiusura a Catania. Non c'è nessun stabilimento in chiusura a Catania, cioè lo stabilimento di Catania non è in discussione, sono 750 persone, è un sito consolidato per la produzione sterile all'interno della rete di produzione di Pfizer. Quello che è successo a Catania invece è che il centro di tossicologia della Pfizer, ebbene lì ci sono trattative in corso per il trasferimento a terze parti dal primo di febbraio, però nessun timore per il centro Pfizer di Catania, questo ci fa piacere. Ancora Andrea Fontana è ancora in collegamento con noi. Detto ciò, mi manca ancora un titolo, se ho scarso un minuto. Sul Banco Popolare faremo bene a ricordare che domani è l'ultimo giorno per i diritti solamente di capitale. Perché, sì, Esattamente, e questo è anche diciamo il motivo per cui oggi il Banco Popolare ha perso quasi il 2%, cioè chiaramente in questa fase gli operatori fanno i conti sul fatto che convenga accaparrarsi azioni o se convenga invece acquistarsi diritti che danno poi diritto naturalmente, come dice la parola, ad acquistare le azioni dell'aumento di capitale. E infatti in questo momento il calcolo è ancora a favore dei diritti e per questo abbiamo visto oggi che le azioni hanno perso quasi il 2% e hanno chiuso a 2,64%, quindi gli operatori vanno ancora a comprarsi i diritti e questo gli darà diritto ad avere diritto. Allora, grazie Andrea Fontana, la base sotto indica che c'è il nostro GR, poi parliamo nella seconda ora del programma di federalismo con i protagonisti anche di questo voto, questo pareggio che ha significato la bocciatura del decreto. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. C'è chi contesta anche che dico troppe volte in diretta, va bene. E parliamo adesso di federalismo fiscale. Che cosa è successo? Ve lo stanno raccontando da oggi pomeriggio i nostri GR, e cioè l'attesissimo, non solo per il federalismo, anche diciamo la tutta per la tenuta del governo, voto in commissione bicamerale si è risolto in un pareggio. Il 15 voti a favore e 15 voti contrari. Il presidente della commissione Mario Baldassarri ha votato contro, e a questo punto il testo, quello che era il risultato della cosiddetta quarta bozza, dopo che i comuni avevano bocciato la terza bozza, il testo è stato bloccato. Le ipotesi, ci sono varie ipotesi in questo momento, poi ne parleremo anche con il nostro Vincenzo Miglietta. Quello che capiterà al testo, tra l'altro questa sera avete sentito c'è un consiglio dei ministri straordinario riunito 19:30, mi sembra di aver capito, e poi il testo potrà andare alla prova delle camere, potrà svolgere un insieme di altri iter. Allora a questo punto noi stiamo aspettando, fermo stando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Allora, parliamo di federalismo fiscale, lo facciamo anche direttamente con chi oggi era in commissione ed era in commissione anche come presidente. Allora, siamo in collegamento infatti con il senatore, nonché economista Mario Baldassarri, che è iscritto a Futuro Libertà. Presidente, buonasera. Buonasera a voi. Allora, lei è presidente della commissione bicamerale per il federalismo, lei ha votato contro, in questo caso è stato anche determinante il suo voto, per lo stop, bocciatura, stop, a me poco interessano i nominalismi. Mi dica una prima cosa, che cos'è che non l'ha convinta? Perché lei fino all'ultimo diceva la mia valutazione non è positiva, però un conto è l'astensione, un conto è il votare contro. Dov'è, diciamo, dov'è il nodo poi della quarta bozza del federalismo fiscale? Per correttezza devo dirle che non sono presidente della bicamerale, no, ha ragione. Sono un semplice membro, sono presidente della Commissione Finanze del Tesoro. Ha ragione. Ma è quello che vado dicendo da due mesi, che ho confermato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, cioè il testo presentato dal governo non è un provvedimento di federalismo fiscale municipale, è un accentramento statale delle risorse con un potere monocratico assegnato al Ministero dell'Economia. Questo provvedimento, chiamato federalismo municipale, in realtà riduce l'autonomia dei comuni e aumenta la loro dipendenza dai trasferimenti dello Stato, chiamati fondo di riequilibrio, fondo di riaggiustamento territoriale delle risorse. Questo è dovuto al fatto che l'impalcatura di quel provvedimento, basata su una cedolare secca non coperta senza la deduzione per gli inquilini, su una compartecipazione all'IRPEF e su un IMU che è solo sulle seconde case e sulle attività produttive, commercianti, artigiani, eccetera, determina anche un altro elemento, che I comuni hanno meno entrate proprie, quindi dipendono di più dai trasferimenti dello Stato e i cittadini perdono il controllo tra le tasse che pagano e i servizi che ricevono, ancor peggio della situazione attuale. Nei giorni scorsi ho cercato di produrre ragionamenti per portare ad un vero decreto di federalismo municipale, li ho tradotti in emendamenti. E come si è visto proprio ieri sera nella commissione bicamerale, il governo ha accettato uno solo di quegli emendamenti, e cioè di passare da un addizionale IRPEF ad un addizionale IVA, che è molto più perequata sul territorio. Su quell'emendamento la commissione ha votato all'unanimità, quindi c'erano, se presi per tempo, spazi per fare bene quel provvedimento federale, ed io sono un federalista convinto, e tra l'altro con un largo consenso della commissione bicamerale. E invece sulla cedolare secca degli affitti c'è stato detto no sul mio emendamento, e poi c'è il nodo cruciale dell'IMU, che deve essere fatta anche sulla prima casa con detrazione dall'IRPEF, cioè una vera manovra di federalismo fiscale. Allora, lo Stato riduce le sue tasse e assegna potestà tributaria ai comuni, con il risultato che il cittadino continua ad avere ICI zero sulla prima casa, però invece di pagare l'IRPEF paga l'ICI al comune. Allora, andiamo con ordine. Intanto vedo molti messaggi al 349-238-6666 che dicono in realtà la sua e quelli del, diciamo, di Futuro Libertà è stata una mossa politica, non sui contenuti. Io invece vorrei restare sui contenuti. Perché? Mi lasci dire che non è affatto vero, è una mossa politica, è una mossa sui contenuti annunciata da settimane. E quindi io fino all'ultimo minuto ieri ho aspettato che il governo in qualche modo acquisisse quel contributo positivo che stavamo cercando di dare, e poiché invece il decreto è rimasto con quelle caratteristiche, io ho già detto anche allo stesso Presidente del Consiglio che in quelle condizioni avrei votato no, ma non per pregiudizi di parte, ma per un giudizio complessivo, perché poi l'effetto sarebbe stato più tasse per tutti i cittadini. Quindi con l'imposta di soggiorno, con le tasse di scopo e con lo sblocco delle addizionali IRPEF, il risultato sarebbe più tasse per tutti. Allora, non è una mossa politica, lei l'ha bocciato perché il risultato sarebbe stato più tasse per tutti. Questo è il titolo che possiamo dare, perché io ho bisogno poi di far chiarezza sui punti, visto che esattamente così. Adesso arriviamo ai punti. Allora, lei dice, se ho ben capito, non è un federalismo, oltre che aumentare le tasse, riduce l'autonomia fiscale dei comuni di fatto, quindi contrariamente all'obiettivo, e aumenta il potere centrale dello Stato. Domanda, andiamo nei dettagli. Allora, anzi, prima domanda, perché secondo lei però i comuni, abbiamo avuto ospite Sergio Chiamparino, che sicuramente è come esponente del PD, oltre che sindaco di Torino e presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, non è a favore del governo, però i comuni l'hanno accettata la quarta bozza, avevano avuto molti dubbi, anzi avevano bocciato la terza bozza, questa bozza l'avevano accettata. Secondo lei perché i comuni l'hanno accettata, se invece lei ritiene che toglierebbe autonomia fiscale ai comuni e centralizzerebbe ancora di più l'imposizione fiscale e aumenterebbe di fatto le tasse? Ma è presto detto, i comuni in questi ultimi anni sono stati strozzati nelle risorse da parte dei governi di centrosinistra e di centrodestra. Molti sindaci non sanno come predisporre i bilanci. Quindi lo sblocco dell'addizionale IRPEF anche per il 2010 consente ai comuni di poter fare i bilanci, e quindi evidentemente loro quell'offerta lì l'hanno dovuta accettare, era un'offerta che non potevano rifiutare, ma il significato è che i sindaci in qualche modo possono fare i bilanci aumentando le tasse sui loro cittadini, per di più non sui cittadini residenti, ma sui cittadini che magari non possono neanche protestare, che sono i proprietari delle seconde case e i turisti e quant'altro. Sì, ecco, le dico che a me sui turisti e sui proprietari delle seconde case, per carità, ci sono tasse in più, le ho pagate anch'io recentemente, lo raccontavo a Roma. Però insomma, da qualche parte a quella comunque è un'autonomia, cioè il comune può decidere se mettere un IMU, che vuol dire l'ICI, lo spiego a tutti, sulla seconda casa e quindi colpire non residenti piuttosto che chi vota o cioè i residenti, e se è un comune a forte caratterizzazione turistica, decidere che avendo tanti turisti fa pagare i turisti. Insomma, questo però, a mio avviso, è un'autonomia in senso federale. Sì, ma che la conseguenza di questo è che aumenta enormemente il peso del fondo di perequazione tra un territorio e l'altro, quindi la dipendenza dai trasferimenti dello Stato. E questo dobbiamo chiarirlo, e cioè se c'è un comune X, il comune di Venezia, usiamo l'esempio più facile, o il comune di Firenze, o di Cortina, che siccome ha tanti turisti può mettere la tassa di soggiorno fino a un massimo di 5 euro e avere tanti introiti, il comune che gli sta accanto, San Vito in Cadore, che è più povero e siccome ha meno turisti, chiederà il fondo di perequazione, cioè il fondo che lo porti al livello del comune di Cortina. Lo sto spiegando bene, Baldassarri? Esattamente. Ma e quindi voi dite in questo modo è ancora più dipendente da Roma, perché... Esattamente. Vabbè. E questo ho capito la sua obiezione. E questo non è solo un problema nord, centro, sud, è anche un problema all'interno dei singoli territori, anche all'interno delle regioni del nord. Ok, primo aspetto. E quindi non è federalismo in questo senso. Vabbè, ho capito. Lei dice, attenzione che qui il fondo di perequazione è quel fondo che serve a non sfaldare il paese, lo dico a chi scrive, cioè quello che dice, vabbè, il federalismo ha bisogno di un percorso di transizione, chi, i comuni che hanno meno come introito loro avranno di più dallo Stato. Il problema è che lei dice, in questo modo si aumenta molto il peso... E se permette, questo risultato poggia su una base di partenza che è sbagliata, perché se avessimo avuto l'addizionale IRPEF, come tutti sanno, l'IRPEF è enormemente sperequata sui territori. Per questo io ho proposto l'addizionale IVA, che è sempre sperequata, ma meno sperequata dell'IRPEF, quindi c'è meno bisogno di ricorrere al fondo. E questo dell'ICI l'ho capito. Secondo aspetto, che riguarda invece anche la tassa di soggiorno, l'ho capita. Il secondo aspetto riguarda la cedolare secca. Le chiedo un minuto di pazienza, Baldassarri, perché abbiamo il traffico, e poi mi spiega anche la cedolare secca, e poi un'ultima domanda per lei, poi la lascio, perché so che ha altri impegni. 349-238-6666 per i vostri sms. 18-19 minuti, allora, senatore Baldassarri, abbiamo capito il principio, cioè le dice non è vero federalismo, si dà più potere ai comuni, allo Stato centrale, meno ai comuni, e abbiamo capito anche nello specifico cosa non le piaceva dell'IMU, della nuova ICI e soprattutto della nuova tassa di soggiorno. Sulla cedolare secca mi può dare una mano? Assolutamente sì, se vuole, nel senso che sono 5 anni che propongo di introdurre nel nostro paese la cedolare secca sugli affitti. Quando l'ho proposta mi è sempre stato detto, come giusto che sia, che passare ad un'aliquota ad esempio del 20% come cedolare secca, c'è una perdita di gettito per quelli che pagano di più sul reddito di affitti in base al 740, in base all'IRPEF. E questa perdita di gettito è stata stimata sempre attorno a 2 miliardi e 300 milioni. E quindi nelle mie proposte degli anni scorsi, l'ultima a luglio dell'anno scorso, io proponevo di coprire quella perdita di gettito con tagli verticali mirati di spesa corrente, che io chiamo sprechi e malversazioni. Dopodiché però è fondamentale capire che la cedolare secca serve per far emergere i milioni e milioni di affitti in nero che ci sono in Italia. Questo obiettivo è perseguibile solo se c'è una deduzione per gli inquilini. Allora si determina una sinergia di interessi, chiamato anche conflitto, in realtà è una sinergia di interessi tra proprietario ed inquilino, il proprietario paga meno di tasse e l'inquilino deduce in parte, almeno in parte, il suo affitto. Bene, nel provvedimento che abbiamo discusso fino a ieri sera, contrariamente all'emendamento che io avevo fatto, che incorporava gli elementi che ho appena riassunto, dei miei emendamenti precedenti, degli anni precedenti, c'è una copertura attraverso una stima francamente poco condivisibile dell'emersione degli affitti, e si dice che già quest'anno questa determinerebbe 3 miliardi in più di entrate che vanno a coprire la perdita di gettito che si determina con l'abbassamento dell'aliquota. E soprattutto non c'è la deduzione per gli inquilini. E allora quella stima di emersione senza la deduzione per gli inquilini, a parte che è del tutto arbitraria di per sé, ma diventa molto più fragile. Allora, lei e dice... quindi io ho detto, il provvedimento è scoperto, allora, ho chiesto che ci fosse la deduzione per gli inquilini. È un provvedimento scoperto d'inverno, piglia freddo. Allora, Baldassarri, ho capito bene cosa dice lei. Lei dice, chi ci chiede cos'è la cedolare secca, è molto semplice. Verrebbe introdotto una cedolare secca del 19% sugli affitti, un'imposta sostitutiva, cioè invece che pagare nel 740 si paga esatto. A parte quando tu hai una casa che hai dato in affitto, adesso la metti nel 740, hai la possibilità di pagare il 19% fisso sull'affitto a canone concordato e il 21% sugli affitti a canone libero. Questa era la proposta. Lei dice c'è una stima di 3 miliardi di emersione degli affitti in nero che non si capisce come già subito al primo anno. Io come è stata fatta? Oh, no, ho capito. No, sto riassumendo. Riassumendo, 3 miliardi. B, non avendo introdotto la possibilità per me inquilino di dedurre in parte l'affitto che pago dal mio, dalla mia dichiarazione, è difficile che io poi vada a, non, a chiedere l'affitto in chiaro che mi costa di più, probabilmente resterò in nero. E su questo lei dice non c'era la copertura finanziaria. La mia ultima domanda però, Baldassarri, è ci riporta all'inizio. Se lei, e non ho motivo per non credere, dice che il voto non è stato politico, non è perché appartiene a Futura Libertà Confini, ma è stato sui contenuti che ci ha appena spiegato. Mi può spiegare cosa capiterà adesso? Cioè, a che, perché un accordo si fa in due, io ho capito le sue esigenze, però non è che tutte le sue richieste possono essere accolte, come tutte le richieste del PD non possono essere accolte, come quelle. Cioè la mediazione vuol dire anche rinunciare a qualcosa. Su cosa è disponibile a trattare? Che percorso individua per il federalismo adesso? Ma guardi, intanto queste idee io le ho espresse in Senato anche quando ero parte del Popolo della Libertà, quindi non le ho cambiate solo perché adesso sono parte di Futura Libertà e ci sono i resoconti stenografici che testimoniano. Quelle proposte di cui parliamo, emendative, sono state fatte proprie anche dalle altre opposizioni, dal PD e anche l'Italia dei Valori, tanto che la controprova è che ieri sera in commissione bicamerale sul cambiamento tra l'addizionale IRPEF e l'addizionale IVA la bicamerale ha votato all'unanimità. E quindi e non pretendo ovviamente mai preteso di dire che ho ragione su tutto quant'altro, però intanto mi si deve dimostrare che non ho ragione o torto e finora non è avvenuto con ragionamenti. E secondo, la possibile via d'uscita poteva essere quella di appunto passare all'addizionale IVA, introdurre sul serio la cedolare secca, magari votando l'emendamento completo che avevo presentato ieri in bicamerale. Poi rimaneva il problema, e si poteva affrontare con più calma anche successivamente, della questione IMU, cioè la vecchia ICI sulla prima casa da detrarre dall'IRPEF, sì, per non far pagare al cittadino, ma trasferire tasse dello Stato a tasse dei comuni. Sì, però io ho visto che devo salutarla fra pochi minuti, io ho bisogno di capire adesso lei come senatore di Futura Libertà che percorso immagina, cioè immaginando che non tutto quello che lei chiede possa essere recepito, però insomma che cosa propone a sto punto? Perché se guardi, prego. Adesso la palla passa al governo, è passata al governo e alla maggioranza, tanto che mi pare di aver capito che ha annunciato un consiglio dei ministri, sì, alle 7:30 questa sera stessa, quindi vediamo se la maggioranza e il governo intende andare avanti sul federalismo in modo serio, nel senso che ragionando delle cose del merito e con l'obiettivo di fare una cosa vera che deve durare i prossimi 50 anni, questa è una riforma epocale, strutturale, fondamentale, lo può fare con un largo consenso se continua quel metodo del confronto che purtroppo si è aperto appena ieri pomeriggio, ma poi si è fermato al primo punto che era la compartecipazione sull'IVA e non ha proseguito sugli altri punti. Bene, staremo a vedere, quindi lei dice la palla passa al governo, se vogliono trattare noi siamo disponibili a trattare, fermo restando lei mi ha garantito che a qualcosa può anche rinunciare lei, cioè si può mediare anche sulle sue proposte, giusto? Assolutamente sì, ma nessuno è nato imparato di tutto, non sono certamente tutto. Qualche mio ascoltatore, su alcune cose qualche mio ascoltatore di esprimere sì, giudizi senza alcun pregiudizio. Grazie al senatore Mario Baldassarri in collegamento con noi. Buonasera, arrivederci. Allora, così Mario Baldassarri, una precisazione a chi scrive. Allora, tutti possiamo credere o non credere a quello che dicono i nostri ospiti, vale per i politici come per gli economisti. E quindi è legittimo che qualcuno dubiti che la bocciatura non sia arrivata per motivi di contenuto, ma per motivi politici. A me sembra che Baldassarri abbia spiegato anche nel concreto, nei contenuti, i motivi, però legittimo sospettare. Attenzione, che la preoccupazione però che questo forma di federalismo portasse di fatto a un aumento delle tasse non l'hanno avuta solo gli esponenti di Futura Libertà, l'hanno avuta moltissimi economisti e osservatori in questi giorni, tant'è che la Lega ha dovuto anche intervenire per dire attenzione che non vi sarà aumento delle tasse, perché nel momento in cui tu sblocchi l'addizionale IRPEF dei comuni fino allo 0,4, introduci l'ICI per le seconde case, metti la tassa di soggiorno, insomma, attenzione che lì la pressione fiscale può aumentare. Ho un minuto di tempo con Vincenzo Miglietta per capire Vincenzo, scusami l'attesa, per capire le prossime ipotesi dopo questo stop. Sì, dopo questo stop le ipotesi sono almeno tre. Ricordavi il Consiglio dei Ministri delle 19.30, il governo potrebbe scegliere di andare avanti con il testo della bicamerale, ignorando di fatto il pareggio di oggi e tenendo comunque conto delle modifiche concordate con i comuni. Seconda ipotesi, varare un decreto sul fisco municipale riprendendo il testo di quest'estate e parallelamente approvare un altro provvedimento legislativo, un disegno di legge o un decreto con le modifiche degli ultimi giorni. Infine, terza ipotesi, azzerare tutto approvando un nuovo decreto attuativo che contenga le modifiche, facendo così ripartire l'iter e tornando di nuovo in bicamerale. Certamente in quest'ultimo caso la composizione della stessa andrebbe rivista per evitare il pareggio di oggi. Sebastiano. No, bravo Vincenzo, perché hai aspettato e sei stato sintetico come il tuo solito. Grazie anche Vincenzo Minetta per l'attesa, quindi o il testo torna alle Camere oppure torna in Consiglio dei Ministri e quindi si perde però anche la modifica sui comuni, oppure si azzera tutto e si rifà tutto e si va a un nuovo esame in conferenza unificata. Io dico una cosa però, il federalismo veramente è una riforma epocale, dovrà durare decine d'anni, anche aspettare qualche settimana in più. Non è la fine del mondo, a meno che dietro non ci sia un motivo politico, però in questo caso di altra parte, cioè della Lega del Governo, si può anche aspettare un mese in più, magari facendo le cose, ascoltano tutti un po' meglio come i comuni ci hanno spiegato. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, vi lascio la nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi, buona serata. Radio 24, la passione si sente.